颤音 R R Rapa Rapa Libro Libro Rana Rana Carro Carro 练习 Era Era Ira Ira Raro Raro Tiro Tiro Ramo Ramo Roba Roba Rubare Rubare Regalo Regalo Tre Tre Bravo Bravo Prato Prato Greco Greco Grido Grido Ombra Ombra Trave Drave Brano Brano Garbo Garbo Corda Corda Urlo Urlo Marmo Marmo Terme Terme Erba Erba Orso Orso Turno Turno Lana Lana Rana Rana Gala Galla Gara Gara Pelo Pelo Pero Pero Calo Calo Caro Caro Alto Alto Arte Arte Colto Colto Corto Corto Leale Leale Reale Reale La sera è serena. La strada è larga. Domani sarà martedì. 谚语 Proverbi. Gli errori dei medici sono ricoperti dalla terra. Quelli dei ricchi dai denari. In terra di ciechi, chi ha un occhio è signore.